pare naturale. A me che non sia nata la befana, sognata dalla nuova razza umana, chiamata credo uguaglianza sociale. Siamo intesi, voi il grand'uomo ed io la grande bestia, a voi dell'illustrissimo e a tante qui dell'asino asinario, siamo argintesi, a voi è stabilito la giovin moglie e il milionario suocero del povero Arlecchino, pedatissime. Sì, sì, al povero Arlecchino, al povero Arlecchino, pedatissime, al povero Arlecchino. Un ultimo consiglio, accontentiamoci di un po' d'argenteria, piantiamo suocero e figlio e figlia mia.